Armageddon, Black Knight 2013. 10.000 anni saranno passati da quando correvamo liberi sui prati. Non eravamo certo preoccupati di fin dove saremmo arrivati. Oggi vivi allevato in batteria, monitorato dalla polizia, mentre fulminati, imparanoiati, guidano il mondo tipo nave dei pirati. Dal cacciatore, raccoglitore, al ragazzo che lancia l'estintore, estingui ogni forma di vita che hai davanti. Per loro il potere, il cibo, i diamanti. In fondo non siamo cambiati, siamo sempre i soliti primati, con il primato degli assassini, di quelli che colpiscono sempre per primi. Con armi, acciaio e malattie, porti l'abbondanza e le carestie, porti l'arroganza delle guerre di conquista, convinto che sia la cosa giusta. Non vedi le numerose crepe che ti porteranno al fallimento della specie? Ingoierai il mondo per sfamare il tuo branco, l'ultimo uomo, il cacciatore stanco. È la verità, uomo, è quello che stai facendo al tuo cazzo di pianeta. Se non lo vedi è solo perché sei accecato da tutto questo cargo. Identifichi l'evoluzione col bene della tua nazione, ma il bene invoca sempre il male, è la fregatura di ogni morale. Con la scienza trasformi il territorio in un gigantesco laboratorio, così converti le masse in nave in uno sterminato esercito di cavie. Chi governa il mondo lo corrompe, chi dirige l'uomo lo svia. Se vuoi evitare il collasso, devi ripigliarti da questa follia. Con armi, acciaio e malattie, porti l'abbondanza e le carestie, porti l'arroganza delle guerre di conquista, convinto che sia la cosa giusta. Non vedi le numerose crepe che ti porteranno al fallimento della specie? Ingoierai il mondo per sfamare il tuo branco, l'ultimo uomo, il cacciatore stanco. Ed è così che va, uomo. Questa è la storia umana. La storia umana potrebbe non avere un lieto fine.